iso tak kramasi. Nanging yen kramasi loro ati, ora gampang kaya mijet wohing ranti. Tak petani nanging yen metani loro ati, ora gampang kaya micet wohing ranti. Eling aku tansah eling, senajan kau ora eling. Indah